Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. E siamo approdati alla puntata numero 170 del Soundcheck di Radio 24, la nostra prova del suono. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo e buonasera anche al nostro Francesco Tromba, preparatissimo e puntuale come sempre quando si tratta di musica. Sì, buonasera a tutti, siamo prontissimi per una nuova puntata. Allora, caro Francesco, oggi vorremmo iniziare l'appuntamento accendendo i nostri riflettori sul talento di una cantante non molto conosciuta da noi, ma già una piccola grande star nell'ambiente del soul e del contemporary R&B lì negli Stati Uniti. Questa ragazza si chiama Ledisi, che più o meno quanti anni avrà? Una trentina d'anni? Sì, in realtà diciamo non si sa esattamente se sia nata nel 72 o nel 70. 86, però diciamo più o meno sì, c'ha una trentina d'anni. Sì, perché nelle loro biografie le ragazze vogliono sempre nascondere la loro età, però insomma se li porta bene i suoi anni, soprattutto se pensiamo che ha iniziato a esibirsi professionalmente dall'età di 8 anni, partecipando anche a concerti con un grandissimo organico lì a New Orleans, dove è nata e cresciuta. Sì, diciamo il suo esordio pubblico subito con una grande un'orchestra sinfonica, l'orchestra sinfonica di New Orleans, quindi diciamo ha iniziato proprio quasi dal top, possiamo dire. Si è formata musicalmente in casa, ascoltando anche la voce del papà, un formidabile cantante soul, del quale non ricordo il nome, tu lo ricordi? Sì, Larry Sanders. Ecco, il signor Larry Sanders, che poi ha abbandonato la famiglia quando Ledisi aveva 8 anni. Fatto sta che Ledisi oggi è molto richiesta negli ambienti del soul, dell'R&B e anche del jazz, ha registrato 7-8 album a suo nome, si è aggiudicata diverse nomination ai Grammy Awards, ma ancora non ne ha vinto uno a suo nome. Sì, ha ricevuto 8 nomination praticamente ogni anno dal 2008, però ancora non è riuscita mai a vincere. E qualche mese fa è stato pubblicato dalla sua casa discografica il nuovo album, dal quale andiamo subito ad ascoltare questo singolo intitolato Like This. Oggi apriamo il soundcheck di Radio 24 con il talento di Ledisi. Thinking the same, and all the stuff you're holding on to, baby, I'm not to blame. I want to love you like this. Like This, brano che troverete nell'ultima pubblicazione di questa bravissima vocalist americana, si chiama Ledisi, che è nata e cresciuta, come dicevamo, a New Orleans, splendida città dove c'è ancora oggi un fermento pazzesco di musica con grandissimi talenti. Lì nella culla del jazz, però, la musica che si ascolta arriva un po' dappertutto. Insomma, se pensiamo ai pionieri che si sono ritrovati a New Orleans, stiamo parlando di 200 anni fa, che hanno importato a New Orleans la musica occidentale, che si è poi andata a miscelare con le ritmiche africane in quel crogiolo spaventoso di culture, di razze e quindi anche di musica, oltre che di buon cibo, perché c'è del cibo speziato favoloso a New Orleans, tipico della cucina creola. E insomma è lì che si è formata la cultura musicale di Ledisi. E da New Orleans arriva anche un altro campione di oggi, un bravissimo musicista. Si chiama Trombone Shorty, che poi oltre al trombone suona benissimo anche la tromba, e su YouTube si potranno verificare le sue qualità di eccellente strumentista anche in duetto con un altro signore di New Orleans, il signor Wynton Marsalis. Fatto sta che Trombone Shorty ha conosciuto Ledisi e l'ha coinvolta in un suo progetto. Trombone Shorty guida una band molto particolare, una via di mezzo fra ritmica funk con la marching band tipica di New Orleans, quindi una sezione di ottoni con musicisti della nuova generazione che coniugano così così la tradizione di New Orleans e l'hip hop. Fatto sta che Trombone Shorty ha scritto questa composizione intitolata Then There Was You e per, come voce solista, chi ha chiamato? Lady Easy. Esatto. La prima parte del nostro soundcheck è dedicata oggi al talento vocale di questa nuova piccola grande star del soul e del contemporary R&B americano, ovvero Lady Easy from New Orleans, che qui abbiamo apprezzato con la band ormai quotatissima di Trombone Shorty. Ma Lady Easy, il talento di Lady Easy non è sfuggito neanche qualche anno fa a un signore che più volte abbiamo ricordato qui al Soundcheck di Radio 24, il pianista Robert Glasper, che quando ha realizzato la prima operazione con i suoi experiment per Black Radio One, fra i vari artisti coinvolti ha chiamato anche Lady Easy, e alla voce di Lady Easy ha affidato proprio una sua composizione realizzata in un album di qualche anno fa in versione strumentale, qui vocalizzata dalla bravissima Lady Easy. Il brano si intitola Gonna Be Alright. Non so se tu vuoi aggiungere altro sul talento di Lady Easy, oltre al fatto che ti piace anche fisicamente. Sì, diciamo che ha delle belle forme, possiamo dire. No, io volevo aggiungere una cosa su Robert Glasper, volevo dire che arriverà anche in Italia a Roma il 17 novembre insieme a Jason Moran, quindi appuntamento da non perdere. Da non perdere, quindi non sarà con i suoi experiment ma con Jason Moran all'Auditorium Parco della Musica il 17 di novembre. Da non perdere Robert Glasper all'Auditorium della Musica a Roma il 17 novembre, ma anche da non perdere questa performance di Robert Glasper Experiment con la voce di Lady Easy in Gonna Be Alright. Soundcheck, il suono della musica. Thank you for the sunshine bouquet. Oh, on a sunny. Thank you for the love you brought my way. Oh, you gave to me your all and all. And now I feel 10 feet tall. And sunny was so true. I love you. Non si possono contare quanti arrangiamenti e quante versioni sono state realizzate su questa composizione intitolata Sunny, scritta da Bobby Ebb, e questa infatti è proprio non la versione originale ma una versione di Bobby Ebb riproposta qualche anno fa. Questo cantante e compositore nato a Nashville nel 1938, che scrisse Sunny in una giornata triste e anche molto importante. Esattamente che giorno era? Era il 22 novembre del 1963. Eh sì, una giornata che insomma si ricorda con una certa tristezza, e soprattutto la ricorda Bobby Ebb per due motivi particolari. Intanto per l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy, ma anche per la scomparsa del fratello. Sì, il fratello Harold venne ucciso a coltellate di fronte a un nightclub di Nashville. Il senso appunto della canzone è quello di non farsi buttare giù dalle tragedie e di vedere sempre il lato positivo delle cose. Mi sembra anche una cosa importante. Pensa con quale stato d'animo poi Bobby Ebb ha scritto questa canzone in una giornata così triste per lui, la scomparsa di John Fitzgerald Kennedy, ma soprattutto la morte del fratello. Fatto sta che la canzone fu registrata negli studi di New York, i Bell Sound, nel 1966, quindi 3 anni dopo, e ebbe un successo immediato. Infatti Bobby Ebb si ritrovò nello stesso anno a fare una tournée con i Beatles, aprendo i concerti dei Beatles negli Stati Uniti. Sì, un bel salto. Tra l'altro questa canzone Sunny è stata inserita fra le 100 canzoni del secolo dalla BMI, dalla casa di produzione BMI. Allora, da Sunny di Bobby Ebb passiamo al nuovo album di Prince, si intitolerà Artificial Age, parliamo al futuro, sì, perché anticipiamo la pubblicazione che è prevista per il 30 di settembre. E già è primo in classifica Prince nella sezione R&B di iTunes, perché le prevendite stanno funzionando. Il brano che noi vi vogliamo far ascoltare per raccontarvi il nuovo suono di Prince per Artificial Age si intitola You Know, qui al Soundcheck di Radio 24. Put your hands together. You know, like this. This is sweet. Which one's which? Which one's which? Suono di Prince con You Know qui al Soundcheck per anticipare la pubblicazione del 30 settembre per Artificial Age. E il signor Prince ha fatto la storia della black music negli ultimi 20 anni, e ha anche un sacco di imitatori o comunque di musicisti che si sono formati con la sua musica, e fra questi ce n'è anche uno che appartiene a una famiglia importante di cantanti, ovvero la famiglia McKnight. La famiglia McKnight è quella che ha creato i Take Six, e questo signore, il più giovane dei McKnight, è Brian McKnight, che in questo brano intitolato If It Was Cool si rifà con il suo falsetto a quello che molto spesso propone Prince nelle sue produzioni discografiche. Brian McKnight al Soundcheck di Radio 24 con If It Was Cool. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Duetto incredibile, le voci potentissime di Aretha Franklin e Mary J. Blige in No Matter What, brano tratto dalla pubblicazione del 2003 per la Arista di Aretha Franklin, intitolata So Damn Happy, così dannatamente felice forse Aretha Franklin in quell'anno anche di lasciare dopo oltre 20 anni la Arista, la sua storica casa discografica, per creare così la sua casa di produzione. Sì, la Rita Records. E ha fatto bene, perché a un certo punto gli artisti capiscono che si devono rendere indipendenti, e quindi Aretha Franklin, che non è mai stata una compositrice, ha scritto pochissimo in carriera, ma interprete eccezionale, ha capito che a un certo punto doveva creare la sua casa discografica per essere libera di sfornare le sue produzioni così come le pensava. Sì, e diciamo che oltre a un maggiore guadagno per gli artisti, anche un modo per essere più liberi e per non dover dipendere dalle etichette su quello che sui progetti che si vogliono rendere effettivi. Due donne fortissime, Aretha Franklin e Mary J. Blige. Mary J. Blige, anche lei ha una storia abbastanza complicata alle spalle, dipendente da alcol e da droghe, ma ne è venuta fuori proprio per la passione per la musica. Mary J. Blige è una stella di prima grandezza del soul internazionale, e lì negli Stati Uniti ha un seguito, soprattutto da parte del pubblico femminile, che è impressionante. Io ho avuto la fortuna di vederla dal vivo a Los Angeles 3-4 anni fa al Gibson Theater, un concerto spettacolare, tra l'altro era un doppio concerto, prima c'era D'Angelo e poi Mary J. Blige. Certamente quando è arrivata Mary J. Blige sul palco, in sala non si è capito più nulla, le ragazze sono impazzite. Per tutto il concerto Mary J. Blige non ha fatto altro che offendere gli uomini, e quindi anche te, Francesco Tromba. E io non ho fatto niente. Lo so, ma lei ce l'ha con gli uomini, e infatti in tutte le canzoni ha sempre da dire qualcosa contro di noi, mio caro. Comunque Mary J. Blige, anche lei molto richiesta, e infatti viene convocata in studio di registrazione dal grande Quincy Jones, che la coinvolge in questa versione contemporanea di una sua vecchia composizione intitolata Betcha Wouldn't Hurt Me, anzi, a dire la verità, una sua produzione per un brano scritto da Stevie Wonder. E con Mary J. Blige per Quincy Jones ci sono anche il rapper Q-Tip e il bravissimo pianista Alfredo Rodriguez. Betcha Wouldn't Hurt Me qui al Soundcheck di Radio 24, poi facciamo una pausa per il GR e torniamo con tanta musica. Soundcheck, il suono della musica. You can go to Mexico. You can go to Mexico. Di nuovo in contatto con il Groove Master Studio per questo appuntamento, il numero 170 del Soundcheck, della prova del suono di Radio 24, e dopo l'informazione la voce della veterana Cassandra Wilson in Go to Mexico, brano tratto dalla pubblicazione Thunderbird del 2006, ovvero quando Cassandra Wilson ha capito che anche lei, per guadagnare qualcosa in più, doveva cercare una strada più vicina alle sonorità del pop. È un classico anche dei cantanti di jazz come Cassandra Wilson. Forse diciamo dopo un po' di anni a far dischi jazz magari si annoiano un po' e bisogna rimischiare un po' le carte. Sì, perché non si possono cantare standard di jazz per tutta una carriera. Comunque Cassandra Wilson, che ha il suo bel caratteraccio, fa impazzire gli organizzatori dei jazz festival facendo delle richieste assurde, avendo quindi un atteggiamento da star, un po' come fa Keith Jarrett Barrett che manda dei rider, ovvero la richiesta tipica dell'artista da parte del management di tutto quello che serve per poter organizzare al meglio un concerto. Addirittura Keith Jarrett chiede non solo il silenzio in sala, non vuole essere fotografato, non vuole vedere flash, e negli ultimi rider chiede anche una temperatura nei teatri che non superi tipo i 25 gradi e non sia inferiore ai 22, questo per tenere l'accordatura del pianoforte impeccabile. E se suona all'aperto? Se suona all'aperto i problemi sono sempre degli organizzatori. Comunque noi torniamo a Cassandra Wilson qui al Soundcheck con Go to Mexico, che lancia il suo testimone a un'altra veterana. Anche lei si è cimentata con il jazz, però lei è una caposcuola per quel che riguarda la vocalità soul e R&B. E vi stiamo parlando di Chaka Khan, che ne ha fatte di tutti i colori durante la sua carriera. Ho avuto anche il piacere di incontrare Chaka Khan, che ama presentarsi sul palco circondata da ventilatori, quindi non ama l'aria condizionata, però io l'ho vista sudatissima sotto questi ventilatori che muovevano aria come delle pale di un elicottero. Forse anche perché l'aria condizionata fa male alla voce. Esatto, l'aria condizionata fa male alla voce, e poi immagina una donna caliente come Chaka Khan, famosa proprio per l'energia vitale, fisica e canora che mette sempre nelle sue produzioni e durante le sue performance dal vivo. Allora, Chaka Khan qui al Soundcheck di Radio 24 con Reconsider. Soundcheck, il suono della musica. Singing, stop this train. I wanna get off and go home again. I can't take the speed, it's moving in. I know I can. Cause now I see I'll never stop this train. È stato in Italia ultimamente per aprire il concerto dei Rolling Stones, ma lui negli Stati Uniti è considerato una star di prima grandezza. Vi stiamo parlando di John Mayer qui al Soundcheck di Radio 24 con la bellissima Stop This Train, brano tra l'altro tratto da Continuum, un album che gli ha fatto vincere ben 2 Grammy Award. Io invidio moltissimo il talento di John Mayer, eccellente chitarrista, richiesto anche da star del jazz come Herbie Hancock e John Scofield, musicista molto dotato anche da un punto di vista creativo, scrive delle canzoni bellissime a cavallo fra il folk, il blues e il pop d'autore. Ecco, lo invidio molto. Io invidio la lista delle sue fidanzate. Come la lista delle fidanzate? Diciamo che è stato con Jessica Simpson, Jennifer Aniston, l'ultima è stata Katy Perry, ma anche è stato anche con Jennifer Love Hewitt, diciamo. Comunque John Mayer è anche un bel ragazzo, il che non guasta, soprattutto per una casa discografica importante. Sì, questo aiuta, sì, sicuramente anche a vendere copie fra le teenager, no? Per noi però la cosa importante è fare dell'ottima musica. E allora, visto che abbiamo introdotto questa parte del soundcheck con John Mayer, continuerei con questo suono un po' folk e bluegrass, e quindi vorrei passare, mio caro Francesco, a ascoltare un altro brano tratto da Don't Hesitate, album nuovissimo per il bravissimo chitarrista, cantante Raul Midon, che torna con questa pubblicazione per una casa discografica importante come la Artistry, che è poi una sezione della McAvenue, una delle migliori case discografiche in questo momento lì negli Stati Uniti. Allora, Raul Midon in Time Machine, gli appassionati e i musicisti noteranno che questa composizione, che scorre fluida con grande facilità nell'ascolto, nasconde poi ritmicamente delle battute di sette ottavi. Quindi l'avevi notato? No, sinceramente. Bene, te lo faccio notare io. Adesso ti faccio contare Time Machine di Raoul Midon qui al Soundcheck di Radio 24. Tomorrow's not so far away. Remember the future's what we say it is. And with a symphony of hearts, we can build a better day. Listen what I say. Here is where I'll stay. Sì, il disco è bellissimo, Don't Hesitate di Raoul Midon qui al Soundcheck di Radio 24. E allora, per anticipare un'altra pubblicazione, è Jamie Callum, che uscirà, quando esce il nuovo disco di Jamie Callum e come si intitola? Il 6 ottobre, si intitola Interlude. Interlude, lo compreremo, ci sono varie partecipazioni, tra l'altro c'è anche un duetto molto bello con Gregory Porter, c'è anche la partecipazione di Lauren Vula, insomma tutti amici del Soundcheck. Sì, diciamo. Allora, io intanto, siccome non ho ancora acquistato Interlude, visto che viene pubblicato i primi giorni di ottobre, direi di apprezzare ancora una volta il talento di questo ragazzo che è campione di incassi, ovvero il discograficamente parlando il best seller della discografia jazz inglese da sempre. Jamie Callum, pianista, cantante, ragazzo molto simpatico, lo ascoltiamo in questa sua composizione intitolata My Yard. Jamie Callum al Soundcheck. So hail a taxi cab and come around here, and I will meet you right outside. I got some DVDs and a couple of beers, and if you want to, we can stay up all night. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. Yes, I've lived here before, many times, many times. I know you, I've met you many times. La voce esile e raffinata di Ricky Lee Jones in Up From The Skies, addirittura dal repertorio di Jimi Hendrix, ma brano rivisitato in questa versione swing dall'album Pop Pop Pop, con la partecipazione di musicisti di prima grandezza come il chitarrista Robin Ford, ma anche la partecipazione del sassofonista Joe Anderson e addirittura Charlie Haden al contrabbasso, scomparso praticamente un mese fa, Charlie Haden. Allora, da Ricky Lee Jones con Up From The Skies alla voce della svedese Rigmor Gustafsson, che dal soundcheck della sezione jazz approda a quello del sabato, perché da questo album intitolato When You Make Me Smile c'è un brano che io ho molto apprezzato e che hanno apprezzato anche i radioascoltatori di Radio 24, che hanno richiesto diverse informazioni mandando email al nostro indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it. Allora, tanto per ricordare, Rigmor Gustafsson, che non è ancora cinquantenne, è una veterana del jazz svedese, ma anche lei è una cantante molto versatile, una cantante molto sorridente, e lo abbiamo fatto notare quando l'abbiamo presentata la settimana scorsa, che questo suo sorriso lo si avverte anche durante l'esecuzione dei suoi brani, soprattutto da questo album che poi si intitola When You Make Me Smile, quando mi fai sorridere. Il brano è una sua composizione molto delicato, molto carino, lo abbiamo già detto, potrebbe entrare a far parte nel songbook di una colonna sonora di un film romantico americano. Il brano si intitola Call Me Lonely, la voce e il sound di Rigmor Gustafsson al Soundcheck. Come on up to the hillside, come up to the house. Will you climb to my window if I let my hair down? Come on up to my bedside, come but make it fast. come on into my chambers, introduced at last. Soundcheck, il suono della musica. Ancora una bella manciata di minuti a disposizione del soundcheck di Radio 24. Con cosa vorresti continuare il nostro appuntamento? Chi vorresti ascoltare? Sharon Jones and the Dapkins. È un po' di tempo che mi proponi il nuovo album di Sharon Jones, questa cantante nata nel 56 ma che è arrivata al successo in tarda età per vari motivi. Intanto perché ha fatto un altro lavoro. Che cosa faceva? Faceva la secondina in un carcere nello stato di New York. Ma sapeva di avere delle corde vocali irresistibili e infatti gli amici che poi l'hanno coinvolta nella band l'hanno sottratta al carcere, anche se non era lì per reati ma per fare il suo lavoro, e l'hanno portata, pensa, addirittura a Umbria Jazz. Ma ormai ti sto parlando di più di una decina di anni fa. La prima volta che ho visto Sharon Jones e The Dapkins è stato proprio a Perugia, e si esibivano gratuitamente lì in piazza di fronte all'Hotel Brufani e ebbero un grandissimo successo. Io rimasi colpito dall'energia di questa donna e soprattutto da questo suono antico a cavallo fra il soul, il rhythm blues dannata e anche un pizzico di rock and roll dei Dapkins. Devo dire che nella sua voce si sente tutta l'energia e la voglia comunque di emergere che ha avuto anche Sharon Jones. Lo notiamo anche dalle sue vicende private, cioè nonostante lei abbia avuto il cancro, comunque nel giro di neanche un anno ha ricominciato a suonare, quindi una donna veramente forte, devo dire. Sì, una band molto forte, quella guidata dalla voce di Sharon Jones, che approda al soundcheck con Long Time, Wrong Time. Da pochi mesi l'album si intitola Give the People What They Want, dai alla gente quello che vuole, e questo è un po' il concept di Sharon Jones con i suoi Dapkins in Long Time, Wrong Time qui al soundcheck di Radio 24. Siamo arrivati ai saluti, siamo pronti per lasciarvi invece con Zara McFarlane, il brano è Move, anche lei un'artista prodotta da Giles Peterson che ha realizzato per lei questo album dal titolo If You Knew Her. Allora, mio caro Francesco Tromba, io direi di ricordare agli amici che tu sei attivissimo da un punto di vista telematico, abbiamo attivato la pagina di Twitter, sei attivo su Facebook e naturalmente il nostro indirizzo di posta elettronica per chiedere informazioni su tutta la nostra musica è sempre lo stesso, soundcheck@radio24.it. Esattamente che cosa stai facendo adesso? Sto per pubblicare la scaletta di oggi. Ah, bravo, così siamo velocissimi, è vero, perché non solo lo farai tu, ma lo faranno anche gli amici che collaborano con noi, ovvero troverete la scaletta nelle pagine del sito groovemasteredition.it. Siamo ai saluti, vuoi ricordare gli appuntamenti di domani? Ok, saremo in onda dalle 15:30 e nella seconda parte invece quella dedicata di più alle sonorità jazz dalle 19:15, subito dopo il GR delle 19. Ma non ti sfugge nulla, mio caro Francesco Tromba. Allora, appuntamento a domani con il soundcheck, vi lascio con la voce di Zara McFarlane. A tutti voi buona serata, buona musica, buon weekend, ci risentiamo domani. Un saluto da Gigi Telesforo e... da Francesco Tromba. Bravo, hai visto, hai pure salutato bene. So the time has come and I am on my own. I have direction though I know not where to go.